quel film era, c'era un conto in sospeso, perché sentivo che pur essendo coinvolto, avendo anche coinvolto, l'ho ringraziato, Pier Giorgio Bellocchio, mio fratello, Grazia Cherchi, Antonio Pellini, un ex allievo del collegio, però c'era ancora uno spazio. E se non avessi fatto, se non l'avessi fatto adesso, non avrei avuto più l'occasione, insomma, perché non siamo eterni, tu capisci bene. No, e quindi è una cosa non mentale, è un conto in sospeso con il montaggio di questo film. Posso dire che è una bella lezione anche a molti cineasti di oggi, che invece danno la sensazione di non voler rinunciare nemmeno a un fotogramma. Invece, non sempre, non sto invocando la censura, però a volte i film guadagnano dall'essere asciugati. Ma diciamo non una velocità assolutamente superficiale, no, assolutamente, però questo lasciare più alle immagini che alle parole, risparmiare sulle parole, io l'ho imparato e ne sono convinto un po' sugli ultimi film. Mi colpì, questo era un discorso preventivo, l'ho già detto quando facevo un lavoro preliminare con Sergio Castellitto, mi ricordo, nel regista di Matrimonio. Lui già prima di girare, come di solito non fa mai nessun attore, mi suggeriva di tagliare, come dire, ma questo è inutile, questo effettivamente laddove capisci al montaggio l'inutilità di una frase, di un concetto. Io ne sono quasi felice di tagliare. Ma sì, prego. Allora Marco, abbiamo raccontato, facendoci le agenzie, la gag di Bernardo Bertolucci che ha detto che una volta gli hanno fatto i complimenti per i pugni in tasca, come a Monicelli facevano i complimenti per i film di Comencini, no? Una cosa che Mario ha raccontato qua a Hollywood Party diverse volte. Però raccontaci adesso tu l'emozione di essere premiato da Bernardo, che è quasi un tuo coetaneo, Più con cui, giovane, sì, di pochi mesi più giovane, con cui vi siete incontrati poco fisicamente nella vita, ma in qualche modo avete avuto delle vite ma parallele. io credo prima di tutto che questa premiazione mi ha emozionato più, molto di più di quanto immaginassi, insomma, mi ha come sconvolto in senso dell'emozione. Diciamo che con Bernardo, pur a Roma frequentandoci e avendo molti amici in comune, se pensiamo a Moravia, se pensiamo a Pasolini, alla Betti, a tutta un'intelligenza attraverso la quale ho un po' conosciuto la società culturale romana, poi ognuno è andato per la sua strada e ci fu anche per alcuni anni una certa rivalità, nel senso che, come lui disse, mentre mi piaceva il cosiddetto realismo inglese, a lui era un grande appassionato di Godard, verso cui io ho grande stima, grande ammirazione, ma non un coinvolgimento. Per cui poi lui ha preso proprio, è diventato un grande regista internazionale, mentre io mi sono fermato in Italia, ecco. Però da un po' di anni, ma direi anche da tanti, c'è come, non so, un misterioso riavvicinamento, è come se io sentissi che le origini, ma non tanto granducali, perché appunto anche lì Parma è sempre prima di Piacenza, Piacenza, non dimentichiamo quel film in cui lui fece quella battuta di Piacenza l'Italia ne fa senza, insomma, perché c'era una rivalità anche a livello dei quaderni piacentini, insomma. Però adesso è come se prevalesse una certa umanità che prescinde dai diversi destini e anche dalle strade diverse. Ecco, lui, appunto, lui Freud, io Fagioli, nel senso, un certo, anche percorsi psichiatrici molto, molto diversi. Però nonostante queste diversità, anche di impostazione della della formazione, e c'è indubbiamente quello che si dice comunemente un affetto, ecco, che è misterioso perché non so da dove venga, però c'è. Prendiamo atto di questo e prendiamo atto sempre nelle agenzie che citava prima Alberto Crespi, che hai ormai ufficializzato il fatto che stai preparando un film ispirato al caso di Luana Englaro. Sì, sì. Che cosa ti ha particolarmente colpito in questa storia, come una delle storie più, più forti, anche più oggetto di polemiche nell'Italia di questi anni? Mi ha sconvolto e mi ha coinvolto enormemente quando è accaduta e quando si è conclusa. Ovviamente Luana era un personaggio muto, misterioso, invisibile. È chiaro, mi ha sempre molto colpito il padre, la sua determinazione, il fatto di pretendere dalla legge la sua applicazione, la sua testardaggine, la sua solitudine, il suo non voler essere strumentalizzato da nessuno. Però il film ha questa realtà che, come sappiamo, invase le televisioni, dietro la televisione, con tutto quello che veniva raccontato quotidianamente su Luana, è presente, sarà continuamente presente, ma davanti ci sono dei personaggi che hanno a che fare con il dramma di Luana, però in maniera autonoma, insomma, sono personaggi di fantasia. Bella Addormentata però connette alcune vicende private di questi personaggi con Luana, Bella Addormentata, ecco, perché non dimentichiamo che la comunicazione, il messaggio televisivo, e lo disse proprio l'anestesista che l'aveva accompagnata alla quiete, diceva: ragazzi, ma noi vediamo questa bellissima ragazza, purtroppo non è così, ma per lo spettatore potrebbe immaginare, pensare che viene uccisa questa stupenda ragazza. Ecco, quindi anche un discorso sui messaggi, su come in quell'occasione esplose internet, YouTube, e cambiò un po' anche il senso della comunicazione in Italia. Diventa una riflessione sui media a partire sì, da... anche sì, sì, esatto, esatto. Questa sera c'è, ricordiamolo, c'è Vincere in televisione, prima tra l'altro c'era anche Filippo Tini qua fuori. Ascoltiamo una clip da Nel Nome del Padre. Voi vi dovete sforzare, vero? Di capire, vero? Che non è la mia povera persona, vero? Che avete il dovere di rispettare, vero? C'è l'autorità, vero? Che rappresento con la mia laurea, vero? La mia veste, i miei capelli bianchi, vero? E bambini, perché ti nascondi? Sei incorreggibile. Così facendo, vero, che mi costringe a castigarti, vero? Io mi domando con preoccupazione che cittadini diventerete senza il senso dell'autorità e della legge. Cosa volete che faccia? Voi ridete, ma io boccio, io boccio, faccio sul serio. Questa era una clip da Nel Nome del Padre di Marco Bellocchio, il film scelto per accompagnare questo sacrosanto leone alla carriera, che giustamente Marco ha definito un premio in prospettiva, insomma, perché la carriera è in pieno svolgimento. Sì, ma ci credo e poi vedremo, insomma. Io sono in piene forze per continuare. E questo fa piacere veramente a tutti noi, direi. Marco Bellocchio, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi nella serata del tuo forse riconoscimento più importante. È stato veramente un piacere. Ci rivedremo, grazie. Ciao, grazie. Marco. Grazie. Stay.